ciclamì, che dan profumo al mio giardino, è nata una margherita. Con amor l'accoglierò, perché da lei saper dovrò soltanto una cosa che interessa molto il mio cuore. Mamma, no, mamma, mamma, no, mamma, mamma, no, mamma. Oh, Margherita, tu dimmi se vuole bene a me. Mamma, no, mamma, mamma, no, mamma, mamma, no, mamma. Oh, fiorellin, che sai tutto, non farmi più soffrire. I petali così cadono pian piano, ma tremar, sento già la mano, 5 o 6, ne dovrò sfogliare ancora per saper se. Mamma, no, mamma, mamma, no, mamma, mamma, no, mamma. Adesso il fin lo so, mamma, oh, che felicità.